Buongiorno, benvenuti al corso Kollel Torah. Oggi stiamo studiando la Mishnah, proseguiamo. Abbiamo concluso il primo capitolo, la scorsa lezione, e ora procediamo con il secondo capitolo del trattato Rosh Hashanah. In realtà la Mishnah procede sulla scia di ciò di cui stavamo parlando la scorsa volta, che è sempre la possibilità di andare a testimoniare riguardo alla visione della nuova luna, il rinnovo, la nascita della nuova luna, la possibilità di andare a testimoniare anche durante lo Shabbat, quindi fino ad un certo punto profanare lo Shabbat, come spiegato nelle scorse lezioni, per l'importanza appunto di portare la testimonianza davanti al Beit Din. La nostra Mishnah va ancora più diciamo così, allunga ancora di più, allarga ancora di più questa possibilità dicendo la seguente cosa. Vediamo. La Mishnah dice: Im einan makirin oto, se non lo conoscono, cioè i giudici del Beit Din non conoscono il testimone, non sanno se è una persona degna di essere presa in considerazione per questioni di testimonianza, oppure non conoscono il gruppo di testimoni, i due testimoni che sono venuti, allora in quel caso serve qualcuno che dà una testimonianza a loro volta della validità dei testimoni. Ok? Come si chiama questo? Un attestato, diciamo, di validità. No? Come quando devi prendere un documento dal commissariato, come si chiama, che dice che non hai un passato penale o c'è Certificazione, no? un tipo di Sì, certificazione, carichi pendenti. carichi pendenti e così via. E quindi comunque serve una testimonianza. Però la persona sta andando di Shabbat, spiegano i commentatori, allora Meshalchin Acher Imoleha Ido possono mandare i giudici della città dalla quale stanno partendo le persone per testimoniare, possono mandare insieme a loro altre persone per testimoniare la validità dei testimoni che hanno visto la nuova luna. Questo sempre, chiaramente, ma i commentatori dicono anche di Shabbat. Quindi il fatto di profanare lo Shabbat andando fuori dal limite permesso, fuori dalla città, Chutz Latchum, questo è permesso anche per chi deve testimoniare riguardo agli altri che testimoniano e non la testimonianza stessa. Ora la Mishnah spiega un altro aspetto. Barishonah, in origine significa prima che accade la seguente cosa. Barishonah, in origine, ayume kablin eidut hachodesh mikol adam. I giudici accettavano la testimonianza riguardo alla nuova luna da qualsiasi persona. Che noi cosa abbiamo detto? Noi abbiamo detto se non lo conoscessero si potrebbe usare anche la testimonianza di un'altra persona che la conosce. E la Mishnah chiarisce, in origine non ci si faceva questo problema, chiunque veniva a fare Eidut riguardo il rinnovo della nuova luna, quindi testimoniava, veniva accettata la testimonianza. Non si aveva motivo per sospettare che la persona non fosse o non sia onesta. Perché allora cambiò la politica? La Mishnah spiega: Mishe kilkelu haminim, da quando che gli eretici, minim è un nome generale che si usa per gli eretici, coloro che vanno contro i chachamim, divennero o fecero corrompere, fecero corruzione, ora vediamo in che senso. Allora, da quel momento, Itkinu istituirono i Chachamim, Sheloyume Kablin Ela Mina Makirim. Da quel momento in poi hanno deciso di non ricevere la testimonianza se non che da persone conosciute come idonee per testimoniare. Buongiorno Alberto. Buongiorno Alberto. Allora, per quale motivo, qual era il Fare questa problema? domanda. Qual era il A che problema? A pro? che pro e che tipo di corruzione, di che tipo di corruzione si parla? Allora i maestri spiegano nella Gemara quando commentano questa Mishnah e i commentatori spiegano che questo è un riferimento a gruppi tipo i Sadducei e altri gruppi simili che avevano interessi diversi per ciò che riguarda il rinnovo della nuova mensilità, in particolare quando si tratta del mese di Nissan. Perché? Perché il mese di Nissan, noi sappiamo che è il mese in cui viene Pesach, e chiaramente il mese in cui viene Pesach abbiamo la mitzvah di Pesach e abbiamo la mitzvah del Omer, e cioè noi sappiamo che il secondo giorno di Pesach si fa il Korban HaOmer, si porta il Omer, cioè il volume, la misura di orzo, e da lì è permesso il nuovo cereale, il nuovo raccolto di cereale di quell'anno. Ora, nella Torah però non è scritta la data, il 16 di Nisan, il giorno del Korban dell'Omer. Nella Torah è scritto il giorno, l'indomani, Mimachorat Shabbat, l'indomani dello Shabbat. La domanda è: quale Shabbat? Non è una data, l'indomani dello Shabbat, sono 50 volte l'anno o più. Allora, cosa vuol dire? La Halakha le Moshe mi Sinai, l'insegnamento da Moshe dal Sinai è che è un riferimento al Pesach, non il Shabbat come sabato, ma lo Shabbat come riposo. Cioè abbiamo parlato di Pesach, quindi un giorno di Moed, di riposo, e il giorno successivo, il 16 di Nisan, il giorno in cui si fa il Corban dell'Omer. L'interesse invece dei Sadducei era diciamo così, far sì che non ci sia il potere delle cose in mano dei Chachamim, e quindi hanno detto no, noi andiamo secondo la letteralità biblica, che Maharat Shabbat significa domenica, l'indomani del sabato, e quindi avevano interesse che Rosh Chodesh sia in una maniera che il primo giorno di Pesach venga di Shabbat. Se poteva essere venerdì o Shabbat o domenica, loro volevano creare il sistema in cui sarà di Shabbat. Allora, se Rosh Chodesh del mese di Nisan poteva essere in una maniera che viene, che il giorno 15 giorni dopo sarà Shabbat, 2 settimane dopo sarà Shabbat, allora se era una questione di anticipare un giorno o posticipare un giorno, Nel dubbio, corrompevano dei sì. testimoni, pagavano dei testimoni andare a testimoniare nel Beit Din, che hanno visto il rinnovo della nuova luna, e visto che non c'era un censimento, non c'era un cernimento, eccetera, allora accettavano i testimoni e potevano fissare la nuova luna in base a delle testimonianze false. Quando si sono resi conto di questa situazione, hanno detto non si accetta più la testimonianza da parte di chi che sia, bensì solamente da persone riconosciute come oneste e sottomesse all'autorità dei Chachamim. Allora si accetterà la testimonianza, e per questo motivo addirittura il permesso di viaggiare, di camminare più lontano di Shabbat del permesso è esteso non solamente ai testimoni, ma anche a coloro che testimoniano la loro validità. Fino a questo punto si allarga diciamo, la forza, l'autorevolezza dei Chachamim, che devono mantenere la Messorah, la tradizione di Torah Shebichtav con Torah Shebealpeh, di Torah scritta con Torah orale, così come è voluto da Moshe Rabbeinu in poi, e fino a questo punto riescono ad allargare la permissibilità di certe cose. Sì. Quanto tempo durava questo processo di verifica al massimo? Processo di verifica? Cioè, Sì, della. per dire, Non è testimonianza, detto che beh. debba durare molto tempo. No, infatti. Bastava una testimonianza. Infatti, per questo diciamo che è permesso un testimone che viene No, semplicemente. lui dice nel dubbio, almeno Sì. cioè, entro quanto potevano dibattere, tentate il Sanedrino non dice. Beh, non è chiaro, perché comunque i tempi erano stretti. Che Appunto. Poi se non si prima o poi faceva Rosh dirlo. Chodesh quel giorno, allora automaticamente era il giorno successivo. Poi devono fare il riscontro con le teorie, perché chi doveva valutare i testimoni aveva la Esatto. Sì, conoscenza e vedere se quadrava la testimonianza. Sì, di Erano questo esperti, parleremo un po' più avanti, di come facevano esperti. l'interrogazione dei testimoni per capire se quello che Chiedevano stavano il testimone testimoniando loro. effettivamente fosse in realtà possibile che si veda la Luna in quella posizione, in quella direzione, in quella situazione, eccetera, e in quel giorno, ovviamente, in quella notte. E comunque qui il riferimento agli eretici è un riferimento a questi gruppi come i Sadducei che facevano corrompere dei testimoni per far sì che Rosh Chodesh sia nel momento in cui farebbe comodo secondo la loro teoria. Invece nella prossima Mishnah, la Mishnah Bet del secondo capitolo, troviamo che un'altra cosa che hanno dovuto modificare a causa di problemi causati da altri. Barishonah, in origine, Hayu Masiin Masuot, in origine accendevano dei falò, quindi dei segnali di fuoco, per comunicare che è stato fissato il nuovo Rosh Chodesh, è stato santificato il mese Kiddush HaChodesh. Cosa è successo? Questo per comunicare, se tu decidi il Rosh Chodesh in un luogo, non è possibile che tutti lo sappiano subito e ovviamente serve qualche modalità di comunicazione. Allora, per comunicare cosa facevano? Sull'altura più vicina facevano un segnale di fuoco, quindi facevano un falò, e sull'altura successiva vedevano e quindi facevano un'altra, e così via, a mo' di catena, e arrivava la notizia dove doveva arrivare. Qual era il problema? Mishe Kilkelu Hakutim, qui si fa riferimento a un altro gruppo, i Kutei, e cioè è un termine che si usa per indicare con un altro nome i Samaritani, Shomronim, che loro anche avevano altri interessi contro gli interessi dei Chachamim, e allora a volte facevano loro dei falò, dei segnali di fuoco quando non era stato deciso dai Chachamim, e così avevano la possibilità di fare confusione. Allora, da quel momento, Hitkinu Sheyu Shluchim Yotzim, da quel momento i Chachamim hanno istituito che invece di comunicare tramite questi segnali qui, comunicavano attraverso Shluchim, attraverso dei messaggeri, degli inviati che uscivano fuori dal Beit Din e andavano a comunicare di persona. Questo è diventato il metodo, cioè una comunicazione che arriva di persona da parte di persone incaricate dal Beit Din e confermate come quali persone oneste dal Beit Din. Forse c'era un tipo di certificazione che dovevano far vedere, o comunque forse ormai erano conosciuti e riconosciuti. In questo modo il raggio di diffusione rispetto al tempo che per fare una vera notizia era minore, perché le persone Ci metti da ora il Bedin all'epoca, incaricava, ora dicevi che spostare, poi andavano e andava poi sempre. Infatti, Stringeva tempi. abbiamo parlato nello scorso capitolo di quando c'erano dei momenti in cui i Shluchim dovevano uscire anche in momenti complicati, però questo era un problema per il mese di Tishri, per Rosh Hashanah, che il giorno stesso di Rosh Chodesh, Rosh Hashanah è Moed E anche già e Rosh Hashanah. Soprattutto i Shluchim servivano per Kippur e di conseguenza Sukkot, perché quando tu sai quando è Kippur, sai anche su sai quello. automaticamente quando è Sukkot, e per Pesach, Nisan. E questo lo abbiamo approfondito nel scorso capitolo, abbiamo detto Takanata Moadot, riguardo a come funzionava per i Moadim. E qui vediamo effettivamente Ma dicevo come. in generale, comunque, anche Ma dici fuori c'è un da queste problema proprio di feste. Sì, però il No, problema è questo soprattutto è legato ai ancora di Moadim. più. Questo è ancora di più. Il problema Cioè, del Rosh Chodesh, di sapere quando è la data di Rosh Chodesh, è più che altro legato al discorso dei Moadim. Altri tipi, noi siamo abituati che la data è automatica e chiara, però se per ciò che riguarda contratti legali o altre cose, ci sono altre modalità per indicare, non serve per forza conoscere la magari data il del luogo, mese, ok, in questo senso. No, perché lui dice magari anche un ritardo nel fatto che Sì, un certo, altro un giorno e ritardo periodo sia un nell'arrivo pochino del... dopo, va bene uguale, ecco, quello che Esatto, dice. Invece qua esatto. pensavo anche all'osservanza degli aspetti culturali, diciamo, legati al Rosh Chodesh, Soprattutto i perché... Moadim. Per Ma Rosh no, anche Chodesh, fuori... ok, allora Rosh Chodesh effettivamente spesso non sapevano se erano fuori da un certo raggio, però più che altro interessava Rosh Chodesh per il Korban Musaf nel Beth Amikdash. Quindi nella Questa zona, era la diciamo, cosa nella più zona del Siam. importante, diciamo. Poi chi sapeva in altri posti allora si univa, però non sempre avevano questa possibilità. Infatti poi da qui esce fuori un'altra considerazione. Quando noi parliamo, questa è una cosa di cui spesso non ci si accorge, quando noi parliamo del doppio giorno di Moed, cioè il Moed, la Torah dice abbiamo fatto adesso Shavuot, la Torah dice Shavuot dura un giorno, noi abbiamo fatto 2 giorni. Come spesso si dice, in Israele si fa un giorno e nella diaspora si Diaspora. fa 2 giorni. Non è questa la distinzione tra Israele e diaspora. La reale distinzione è luogo in cui arrivavano in tempo i shluchim del Beit Din e luogo in cui non arrivavano in tempo. Il Se tempo della tecnicamente chiesa. c'erano dei luoghi in Eretz Israele dove non arrivava in tempo Anche lo Shaliach del l'Arabia. Beit Din, anche lì avrebbero dovuto fare 2 giorni. E se al contrario, fuori da Israele c'erano dei luoghi abbastanza vicini a cui arrivavano i Shluchim anche a comunicare lo Shkodesh, quindi potevano sapere quando era fissato e non avevano il dubbio, e di conseguenza Il facevano un tempo giorno della chiesa. solo, allora la distinzione non è più in realtà fuori o dentro da Israele. Questo è un discorso abbastanza ampio che avrebbe delle conseguenze alachiche che non sempre sono prese in considerazione in realtà oggi. Però, se vogliamo capire la motivazione dietro, in realtà la distinzione reale è questa: Makom she'ashluchim magim, luogo in cui arrivano gli inviati del Betin, e Makom she'enashluchim magim, o luogo in cui non arrivano. E quindi la distinzione non è una questione territoriale o Geografica, no, geografica delle confini di Eretz Israel o meno. Però questo è appunto un discorso ampio che prescinde un po' dal nostro discorso qui. Ma è importante conoscere anche questo aspetto qui. Allora concludiamo con questo e, se Dio vuole, la prossima volta proseguiamo con la terza Mishnah del secondo capitolo. Toda Rabbah e buona giornata a tutti quanti. esatto.